America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. La maratona a New York, beh, questa è una registrazione dell'arrivo, avete sentito l'entusiasmo, resta la più classica, direi, delle maratone del mondo. Come mai ve ne parlo adesso che siamo in luglio? Perché c'è un'iniziativa che riguarda l'Italia che ho trovato straordinariamente interessante. Qual è questa iniziativa? 12 ragazzi tossicodipendenti italiani che sono stati ammessi a San Patrignano, che è un centro di riabilitazione, forse uno dei più conosciuti del mondo, sono andati avanti in questa riabilitazione e andranno a correre la maratona, non sono stati ancora dimessi, attenzione, e sono preparati, si stanno preparando per andare a correre la maratona a novembre con l'aiuto, l'appoggio di San Patrignano, con una formula molto, molto particolare, perché pensate, il loro allenatore e Gabriele Rosa che ha costituito un gruppo Rosa Nike Team che ha allenato direi i più grandi maratoneti del mondo, ha vinto con questa squadra un numero enorme di maratone, 40 nelle prime 5 maratone del mondo, 200 credo intorno al mondo, ci sono alcuni dei più importanti atleti. Ebbene, Gabriele Rosa si dedicherà all'allenamento di questi ragazzi. Con lui ci sarà naturalmente una supervisione medica, e la supervisione medica è di Antonio Boschini, che è responsabile del centro medico di San Patrignano e a sua volta era un tossicodipendente, è stato ammesso a San Patrignano, poi è uscito, si è laureato in medicina e ha seguito questo percorso. Ecco, la storia, devo dire, affascinante, noi la seguiremo fino al giorno della maratona, quando sentiremo come questa corsa è andata per loro, e vorrei però partire con una chiacchierata proprio con questi due protagonisti di cui ho parlato, Gabriele Rosa e Antonio Boschini. Ecco, Rosa, buongiorno, mi sente? Sì, bene. Beh, insomma, io ho detto lei ha vinto quasi tutto. Ci dica qualcuno degli atleti che lei ha allenato. Ma dico, per esempio, i più famosi, uno è Paul Tergat, atleta keniano, che ha fatto 3 record del mondo e ha vinto anche della maratona, ha vinto New York, Martin Lell, che ha vinto 3 volte Londra, 2 volte Boston, e per non giudicare le donne, Margaret Okaio, che ha vinto tutte le più grandi maratone al mondo, cioè Boston, Chicago, Londra, e questi sono, dicevo, i più importanti. Tra loro c'è una schiera di atleti altrettanto importanti. Lei ha allenato dunque i grandi campioni, adesso sta allenando dei ragazzi e delle ragazze, perché mi sembra che ci siano 8 ragazzi e 4 ragazze che parteciperanno, esatto, sì, a questa maratona, ecco, che diciamo hanno avuto dei gravissimi problemi, non soltanto di tossicodipendenza, ma anche di equilibrio psicologico, di self-confidence, di fiducia in se stesse, e così via, così via. Che tecniche usa? Diverse? Come li convince? Come li prepara? Ma guardi, l'approccio è lo stesso che si usa per i grandi campioni, cioè si fanno dei carichi di lavoro che sono inferiori, però il principio è lo stesso. Si tratta di far capire loro che loro sono importanti, perché stanno facendo una cosa che può dimostrare al mondo delle tossicodipendenze, non solo a San Patrignano ma anche nel mondo, che si può correre, fare una maratona e usare il movimento come facilitazione nel recupero, ritrova motivazioni per usare il proprio corpo e la propria anche mente, la propria psicologia, che forse avevano perso per anni nel periodo in cui erano caduti nella tossicodipendenza. Ecco, ma come li allena? Cioè, cosa succede? Loro devono correre? Ci dia 2 o 3 informazioni tecniche. Come ha cominciato? Cosa significa? Siamo partiti facendo dei test, come si fanno anche per i grandi campioni, per avere dei dati che riguardavano le loro potenzialità. Dopodiché abbiamo dato dei programmi di lavoro, di allenamento, che si svolgono su 4-5 allenamenti alla settimana, in modo tale che piano piano abbiano prima la percezione del miglioramento che succede in loro e la così voglia di allenarsi, perché capiscono che stanno meglio, e poi dopo, dice, piano piano aumentare le distanze, i ritmi, e verificarli con alcune gare da qui a New York, in modo tale che loro abbiano la certezza di poter finire la maratona, perché per loro l'obiettivo non è il tempo ma finire la maratona. Ecco, Antonio Boschini, lei li sta seguendo per essere certo che tutto funzioni per il meglio. Come vive lei questa esperienza? Io la vivo con entusiasmo, perché sono anch'io appassionato di questo sport, Lo pratico da qualche tempo ed è uno sport in realtà che molto si adatta, che molto bene si adatta a come concepiamo noi lo sport a San Patrignano, perché lo sport a San Patrignano lo concepiamo non solo come divertimento, ma come attività formativa e anche educativa. È uno sport molto semplice che non richiede estro, richiede soltanto volontà, costanza e continuità, che poi sono le stesse qualità che sono richieste per una persona nel momento in cui vuole cambiare vita, vuole migliorare la propria vita e vuole smettere di usare sostanze, nel nostro caso, eccetera. Quindi i due progetti, quello di recupero dalla dipendenza e il progetto di preparare una maratona, si sposano bene. Com'è che gestisce, com'è che segue questi ragazzi per essere sicuro che poi arrivino a destinazione? Quali sono gli elementi che tiene sotto controllo? Beh, innanzitutto questi ragazzi sono ragazzi preparati, sono ragazzi che sono nella fase conclusiva del percorso terapeutico San Patrignano, quindi sono psicologicamente adatti a questa prestazione e anche fisicamente, nel senso che questa squadra di 12 persone rappresenta la punta di un iceberg, cioè di un vasto movimento di corsa, di podistica che c'è dentro San Patrignano, che coinvolge 300-400 persone. Ecco, voi avete avuto degli appoggi, mi sembra, no? Per poter finanziare questa cosa, che voi siete una fondazione in fondo. Come ha funzionato? Come avete potuto organizzare questa corsa? Sì, è una fondazione, ma in effetti dietro il progetto della Maratona di New York c'è l'attività di fundraising. Abbiamo due grandi aziende che sono Cimberio e Robe di K, che ci aiutano, ci sostengono economicamente e con materiali. Inoltre abbiamo avuto, sempre tramite Dottor Rosa, a disposizione dei pettorali che possono essere acquistati anche attraverso il nostro sito sanpatrignano.org. Scusi, dei pettorali per correre alla maratona? Per correre, sì. Chi vuole correre alla Maratona di New York, si vuole iscrivere, può accedere tramite il sito di San Patrignano a come si può acquistare un pettorale. Chiaramente nell'acquisto del pettorale è compreso il costo della trasferta di New York, tutto compreso, e anche un'attività di fundraising. Scusi, ma quanti ne avete di questi pettorali? Perché io so che c'è gente, qualche volta mi chiama, dice ma è impossibile trovarlo, son già stati venduti tutti. È un'opportunità per i nostri ascoltatori di dire bene, io me lo compro a San Patrignano e vado alla maratona. Quanti sono a disposizione? Erano 100 in partenza, adesso qualche azienda già ne hanno acquistati, però penso che ancora qualche decina di pettorali disponibili ci sia. E quanto costano? Lo trovate scritto sul sito di San Patrignano, c'è proprio il link con Maratona di New York in cui si spiega quanto costano e come acquistarli. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, lei da questa costa atlantica che vive sui tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera, continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, devo dire, mi ha colpito molto l'esperienza di questi ragazzi che decidono di correre la maratona. E dunque a loro dedico la canzone del giorno di Vangelis, il tema, la colonna sonora di Chariots of Fire, la storia di un gruppo di ragazzi che si prepara alle Olimpiadi nel 1924, un grandissimo classico del 1981. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!